Se quel guerriere io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato. Per te ho pugnato, per te ho vinto. Ridarti le dolci brecce del patrio suo.